Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno, eccomi qua, state facendo colazione. Allora, io vorrei approfittarne per leggere e commentare con voi uno studio che mi pare molto interessante e che può darci qualche suggerimento su che cosa portare a tavola per iniziare bene la giornata. In linea con noi, intanto, abbiamo un amico che è tornato a trovarci, il professor Luca Piretta, gastroenterologo, esperto in nutrizione dell'Università Campus Biomedico di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta a tutti quanti. Sono contenta di iniziare la giornata con lei anche perché le ho affidato un compito. Vorrei partire con commentare con lei uno studio che è pubblicato sul British Medical Journal, condotto su un campione molto ampio, parliamo di oltre 147.000 adulti in 21 paesi del mondo, che, professore, mi sembra rivaluti un alimento che negli ultimi anni è stato parecchio bistrattato. Professor Piretta. Dunque, è verissimo, cioè negli ultimi anni il latte, facente parte non si sa bene per quale motivo di una serie di sostanze bianche, è stato bistrattato, è stato considerato non idoneo alla salute, è stato considerato foriero di alcune patologie, è stato detto che siccome siamo l'unica specie animale a consumare il latte proveniente da altre specie non dovremmo più consumarlo. Ecco, queste quasi ideologie più che dati scientifici hanno messo un po' in discussione gli effetti benefici del latte, che è un alimento che ha accompagnato tutta la storia dell'uomo e tutta la sua evoluzione fino ad oggi. Il latte ha tantissimi benefici, sia da un punto di vista nutrizionale, e molti li sappiamo, basta pensare al calcio, al fosforo, ma anche altri di tipo funzionale. Che vuol dire? Vuol dire che oltre ad avere un beneficio in termini di nutrizione, fa bene alla salute perché migliora alcune funzioni dell'organismo. Questo studio a cui facevi riferimento riguarda proprio questi dati enormi, perché ha coinvolto, come dicevi, ben 150.000 persone in 21 paesi, in tutti i continenti, e è arrivato alla conclusione che i vantaggi delle persone, per le persone che consumano con regolarità il latte, trovano risposta per esempio in una riduzione di quello che si chiama la sindrome metabolica, che è un insieme di segni e sintomi che coinvolgono l'ipertensione, l'obesità, l'aumento dei trigliceridi, l'aumento della glicemia, il rischio del diabete. Quindi, diciamo, tutte le malattie più frequenti e importanti nel mondo occidentale, in qualche modo il latte e i derivati, soprattutto il latte grasso, anche questa è una cosa che sorprende ancora di più, aiuta a ridurre il rischio di incidenza di queste patologie. Come mai, professor Piretta? Una risposta univoca non ce l'abbiamo e su questo bisogna lavorare ancora molto. Questo è uno studio, come si capisce, di tipo epidemiologico, cioè osserva dei dati delle popolazioni. La motivazione può essere, per logica scientifica, addebitata a vari fattori. Per esempio il calcio si sa che è un minerale che aiuta molto alla vasodilatazione, quindi alla protezione dell'indurimento e dell'invecchiamento delle arterie, e questo può essere una prima spiegazione. Un'altra spiegazione è che nei prodotti, per esempio nei formaggi stagionati, ci sono delle sostanze equivalenti a una molecola che protegge dall'ipertensione, che viene proprio utilizzata nella terapia dell'ipertensione. Quindi è come se uno si prendesse con i formaggi stagionati, in particolare il grano, il parmigiano, prendesse un farmaco naturale per tenere bassa la pressione arteriosa. Quindi anche un altro aspetto importante è il ruolo del microbiota nei processi di fermentazione della caseina e dei derivati del latte, che avrebbero un effetto positivo sullo stato di salute. Quindi è un insieme di cose che messe insieme probabilmente danno una spiegazione causale a questo fenomeno osservato da un punto di vista epidemiologico. Professore, lei ha parlato di latte intero, latte più grasso, solitamente invece soprattutto per tenere un pochino la linea, per evitare di assumere troppe calorie, troppe grassi, quindi si tende a preferire le versioni parzialmente scremato o addirittura scremato. Professore, invece lei ha detto proprio latte intero, curiosamente. Sì, no, non è che lo dico io, lo dice questo studio ed è sorprendente, però una spiegazione, no, non mi arrogo questa intuizione. La spiegazione può essere che il grasso è utile alla salute, basta pensare che tutte le nostre cellule sono ricoperte di grasso, compreso il colesterolo, è fondamentale per favorire una fluidità della membrana, i fosfolipidi sono dei grassi utili alla elasticità delle membrane cellulari e al passaggio delle sostanze. Quindi se noi non eccediamo, perché il problema dei grassi, come degli zuccheri, come un po' di tutti i nutrienti, riguarda sempre l'eccesso o la carenza, mai la quantità giusta. Allora, se noi riusciamo ad assumerne una quantità corretta, abbiamo più vantaggi che svantaggi, compresi i grassi. Quello che noi dobbiamo sempre ricordare che l'alimentazione è un insieme di nutrienti, quindi il problema di prendere latte scremato o parzialmente scremato è relativo a cos'altro mangiamo nel corso della giornata. Quindi se noi facciamo un'alimentazione sana, seguendo la dieta mediterranea, la quota di grassi che ci spetta, come suggeriscono anche i LARN, che sono i livelli di assunzione di riferimento dei nutrienti, e quindi deve essere una percentuale che è prevista da una sana alimentazione, se noi non eccediamo avremo dei vantaggi importanti. Professore, sa che noi abbiamo bisogno degli esempi, di visualizzare un po' le quantità. Allora, se noi facciamo una colazione, per esempio, con del latte intero, oppure mangiamo del formaggio teoricamente grasso, penso per esempio al gorgonzola, penso ai formaggi stagionati tipo il grano, l'asiago, la fontina, e se noi però nel resto della giornata stiamo attenti e mangiamo la pasta, mangiamo la carne magra o pesce e tanta verdura e frutta, ma non abbiamo superato minimamente la quantità di grassi che ci corrisponde a giornata, se invece noi facciamo un'alimentazione che oltre ad avere questa quota di grassi provenienti dal latte intero, dal formaggio, mangiamo i fritti, prendiamo il burro, mangiamo la carne col grasso e del prosciutto, non togliamo il bianco, alla fine della giornata abbiamo probabilmente superato la quota, quindi sono più poi gli svantaggi che i vantaggi. Dobbiamo anche imparare a selezionare e capire quali grassi, sappiamo tutti ci sono i grassi buoni, i grassi meno buoni, quelli poliinsaturi sono più buoni, l'olio extravergine d'oliva porta grassi monoinsaturi e poliinsaturi che fanno bene alla salute, quindi dobbiamo come sempre un po' bilanciare le cose e capire che non è il grasso che fa male, ma l'eccesso di grasso e la qualità del grasso che assumiamo che possono farci del male. Professore, ma per chi invece è intollerante al lattosio, come può in qualche modo ricavare tutti i benefici che sono descritti in questo studio? Che no, mi ha fatto sorridere, perché lei mi ha detto: non lo sto dicendo io, lo dice lo studio. Ma ecco, sembra che non ci siano quindi motivi per ridurre o eliminare dalla nostra dieta il latte e i prodotti derivati dal latte, ma ci sono delle persone, sappiamo, che hanno un'intolleranza al lattosio, e quindi che fare? Qual è il suo suggerimento? Qua lo chiedo al professor Piretta. Il suggerimento intanto è essere sicuri della diagnosi, perché questo è il punto secondo me cruciale che porta molte persone a rinunciare al latte e ai formaggi freschi, ed è un errore anche per loro rinunciare ai formaggi stagionati, perché nei formaggi stagionati il lattosio non esiste, non c'è più, è stato digerito nelle fasi di stagionatura. Quindi molte persone rinunciano al latte e derivati perché pensano di avere un'intolleranza al lattosio, mentre invece hanno un colon irritabile, o magari hanno una celiachia ancora non manifesta, o magari hanno altre manifestazioni di disturbi dell'intestino che vanno inquadrati e diagnosticati. Le persone che hanno una vera intolleranza al lattosio, è importante capire la loro soglia, perché non è una reazione allergica, quindi c'è una risposta del tutto niente, in una reazione allergica bastano pochissime quantità di quella sostanza per scatenare i disturbi. Quando parliamo dell'intolleranza al lattosio dobbiamo invece parlare di una reazione dose dipendente, quindi ognuno ha la sua soglia. Può capitare, questo succede molto spesso, che le persone che si sottopongono al breath test, cioè il test del respiro al lattosio, hanno delle manifestazioni cliniche da intolleranza, però nel breath test vengono date circa 20 grammi di lattosio, mentre in un bicchiere di latte ne abbiamo sì e no 1 o 2, quindi attenzione che non è detto che la positività al test ci impedisca di bere una qualunque quantità di latte o mangiare una qualunque quantità di formaggio fresco, va diciamo sartorizzata, perdonatemi questo termine, al singolo individuo. C'è sartorizzata, mi piace. senta prof, ma se il latte non mi piace, ripiego sullo yogurt, formaggio, insomma cerco in qualche modo di portarmi a casa. Nicoletta ha perfettamente ragione, cioè io sempre dico che la miglior dieta non è quella che viene scritta seguendo i canoni della teoria, ma la miglior dieta è quella che il paziente riesce a fare. Se noi gli diamo un alimento che il paziente non gradisce, è difficile che lo riesca a ingerire. Quindi se il latte non piace, bisogna che il paziente non beva il latte. come dicevi tu, la sostituzione ideale può essere con un formaggio, perché il fatto che non piaccia al latte non vuol dire che non piaccia neanche il formaggio. Quindi si può ampliare nella vastissima gamma di formaggi che abbiamo in Italia per trovare quello che è di nostro gradimento. Se neanche così è, pazienza, ce ne faremo una ragione. Insomma, noi, ecco, lo studio parla, come si dice. Professore, io la ringrazio, la lascio alla sua colazione, le auguro una buona giornata e spero di sentirla prestissimo, perché deve venire alla tavola della bufala in tavola domenica. Qua bisogna combinare. Professore, grazie per essere stato con noi. Grazie a Giorgio De Luca in assistenza, a Laura Vanossi in redazione, a Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica. Vi do come sempre appuntamento dopo il GR delle 12 per parlare proprio delle notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Non mancate. Una buona giornata da Nicoletta.